un susseguirsi di soccorritori, dispacci vari fra le diverse autorità, lettere e infiniti messaggi tra prefetti, sindaci e comandanti. Ma la cosa singolare fu che i cronisti si premurarono di riferire che quell'intrepida signora aveva preso il volo senza neanche indossare dei vestiti adeguati. Ma forse è proprio vero, certe cose si ripetono all'infinito. Scommetto che ognuna di voi sarebbe in grado di raccontare un episodio dove la stampa, cioè i giornalisti, non hanno fatto altro che assecondare quella che è la teoria dominante, perfettamente in sintonia con i peggiori stereotipi e assolutamente lontana da ciò che le donne vogliono, rivendicano o fanno. E anche oggi la mia storia è finita. Ringrazio Sophie Armand per essere stata proprio così e a voi do l'appuntamento al prossimo racconto lasciandovi sulle note di Tracy Chapman, Born to Fight, nata per combattere. Ciao! Di voi una navigante, ovvero trascorre un po' del suo tempo ad informarsi e divertirsi in internet, forse conoscerà la moda delle cartoline di auguri. Internet deve gran parte del suo successo alla posta elettronica e questo preziosissimo strumento sta ormai soppiantando il concetto antiquato di posta. Ricordate quell'inutile carta e quell'oggettino appiccicoso che si trovava dai tabaccai che si chiamava... come si chiamava? Ah sì, francobollo! Ebbene, questa robaccia per nonne non serve più nemmeno per fare gli auguri di compleanno alle amiche, compagne o amanti. Scusate l'inconscia citazione. Ora gli auguri si mandano con il computer e presso www.geocities.com, sempre ricco di spazio per le tematiche omosessuali, e precisamente nel settore West Hollywood, frame 2147, troverete un sito interamente dedicato alle cartoline di auguri per le lesbiche. Ma cosa significa cartolina di auguri inviata tramite posta elettronica? Ebbene, non è altro che una normale mail, ma contenente un'immagine che è spesso in movimento ed una musichetta di accompagnamento. Quando la destinataria riceve la mail, troverà un link verso il server con un numero di riferimento che indirizzerà la vostra amica su una pagina dedicata a lei, contenente l'immagine che avete scelto e quello che le avete scritto. Il tutto mentre suona la musichetta designata. Questo sempre che abbiate nel PC degli altoparlanti interni o schede per il suono tipo la Sound Blaster. Il sito per le lesbiche di cui vi parlavamo si chiama SheCards e potete scegliere tra una trentina di immagini con soggetti romantici, erotici o di azione politica. Il tutto accompagnato da musiche di Katie Lang, Melissa Etheridge, Madonna, Cher, Aretha Franklin e tante altre. Insomma, idea originale o solita paccottiglia da internet, vale comunque la pena di dare un'occhiata al sito. Oppure carta, penna e calamaio. L'insostituibile suspense della penna nella mano e la sfida di un irriverente foglio di carta bianco. Gli appuntamenti. Eh no, il torpore lesbico del dopo estate 98 ci sta rendendo molto difficile portare avanti la nostra rubrica degli appuntamenti. Anche questa settimana c'è ben poco da segnalare, se non il termine dei lavori del convegno sull'erotismo lesbico che si è svolto a Milano dal 30 ottobre al 1 novembre, a cura del Circolo Zami e di Arcilesbica Nazionale, e per il quale siamo in attesa di un'eventuale diffusione degli atti. Notizie non rassicuranti provengono dall'ultimo incontro del Forum delle Lesbiche, che pare abbia deciso il suo scioglimento e preveda come oggetto del prossimo incontro solo la discussione delle proposte per investire i soldi del fondo creato in seguito allo svolgimento della terza settimana lesbica su una campagna per la promozione della visibilità lesbica. Importantissimo per noi è invece comunicarvi il nuovo appuntamento periodico che vede ogni secondo giovedì del mese, dalle 21.30 alle 22.30, la messa in onda di alcune nostre trasmissioni sulle frequenze di Radio Sherwood. Questa gloriosa radio indipendente che, grazie all'attività di Elisabetta, ci vede ospiti nel Veneto e dintorni, potete trovarla sui 97.800 MHz a Padova e provincia, sui 93.350 a Treviso e provincia, sui 100 a Mestre, sui 97.900 a Venezia, sui 104.300 a Rovigo, Ferrara e Bassa Padovana e sui 107.500 a Belluno e Feltre. Siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista autogestito sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Chiamateci ora qui in radio al 491-750 oppure lasciate un messaggio o inviate un fax al 68-64-201. Il centro femminista separatista di via San Francesco di Sales 1A si è momentaneamente spostato in un'ala del Buon Pastore, con ingresso da via della Lungara 19. Visto la situazione precaria di cui vi abbiamo parlato nelle precedenti trasmissioni, non vi assicuriamo più la nostra presenza al Buon Pastore lunedì, ma il telefono fax è sempre in funzione. Nell'arco di un paio di mesi ci sposteremo ancora, sperando di trovare nei locali di via San Francesco di Sales 1B un luogo più accogliente per proseguire le nostre attività. Con questo pezzo inauguriamo lo spazio della musica lesbica indipendente nella prima trasmissione del 2 dicembre 1997 ed ora lo utilizziamo per celebrare la scelta della nuova fascia oraria notturna, Dark Street, delle Kick La Luna. Wanna go home? Ad un certo punto, la mia tendenza all'eccesso virò fuori controllo, verso la bulimia, uno stato di paura e di desiderio, un violento e continuo rimbalzare tra fame e aborto della fame, tra prendere e rigettare ciò di cui si ha maggior bisogno e che istintivamente si desidera di più, il pane della vita. E c'era anche un altro lato di me che temeva il fuoco e anelava il ghiaccio, per paura del tuono incessante e altalenante che la bulimia provoca nella mente. Mi rivolsi al silenzio dell'anoressia. Cercai quell'affamarsi che avevo scambiato per uno stato privo di passioni. Sbagliavo. Non sapevo che, se distorti, l'appetito per il cibo e il suo potere vivificante possono trasformarsi nel loro opposto e diventare un altro tipo di fame. La fame della fame. La fame del potere di morte della fame. Era uno stralcio dell'autobiografia della giornalista americana Maria Hornbaker, dal titolo eloquente, Sprecata, un'autobiografia di un'anoressica bulimica che è tornata alla vita. Sì, un altro libro che parla di due disturbi alimentari che attanagliano più del 20% della popolazione femminile, al punto da essere ormai considerata una malattia sociale. Ogni anno in Italia si individuano 55.000 nuovi casi di anoressia e 70.000 di bulimia, e il 95% è costituito da donne. Sapete di cosa parlo, vero? Di due modalità distorte di rapportarsi al cibo, legate a profonde dinamiche conflittuali, da alcune definite di tipo psicogeno. L'anoressica ha un atteggiamento restrittivo, abilmente controllato, la bulimica sviluppa un comportamento alimentare ambivalente, perdendo il controllo della quantità di cibo che ingerisce e compensando poi la trasgressione con diverse pratiche espulsive, quali il vomito o l'abuso di farmaci, il tutto abilmente celato agli occhi del mondo. Il motivo che ha spinto Lauren Baker a scrivere la sua autobiografia è di opporsi a gran parte di quanto si crede sui disturbi dell'alimentazione. Questo problema viene spesso liquidato come espressione di vanità, di immaturità e di follia, ma questi sono solo degli aspetti marginali o addirittura degli effetti. Lauren Baker rivendica per la sua malattia la definizione di una reazione, sia pure contorta, alla cultura, alla famiglia e a se stessi. La definisce come un groviglio di contraddizioni mortali, un desiderio di potere che priva di ogni potere, un desiderio di dimostrare che non hai bisogno di niente e di nessuno e che si rivolta contro se stesso e si trasforma in un bisogno estremo di fame. L'idea di Lauren Baker trova riscontro in quanto scrive la psicoanalista Pierrette Lavanchy nel suo saggio Il corpo infame. Per lei l'anoressia e la bulimia sono dei disturbi estremamente trasgressivi, sia contro le leggi della natura, sia contro le regole del vivere comune. Il rifiuto alimentare e più ancora lo scempio del cibo nella bulimia toccano dei patti fondamentali, arcaici, sui quali si regge la società umana. Il cibo assume in ogni società una forte componente rituale. Insieme ai tabù alimentari che tutti abbiamo, costituiscono un ordine di pratiche antropologiche e religiose, l'ordine alimentare, che distingue l'alimentazione umana dalle modalità animali di cibarsi. Introducono la civilizzazione. Le persone che soffrono di questi disturbi, attraverso comportamenti alimentari tacitamente vietati dai codici di convivenza microsociale, ci danno il senso dell'inquietante fragilità delle nostre istituzioni civilizzatrici. E allora, da cosa provengono i disordini alimentari? I pareri sono divergenti. Gli scienziati di fede biologica attribuiscono un peso determinante a carenze o eccessi di sostanze ormonali o altre, che agirebbero sui centri nervosi della fame e della sazietà. Gli psichiatri, da sempre interessati alle categorie diagnostiche, insistono sulla parentela dei disturbi alimentari con la depressione. I sociologi, di fronte al diffondersi del fenomeno nelle società ricche, chiamano i disordini alimentari una malattia dell'abbondanza. Altre teorie, che lavorano sulla persona, sono arrivate alla conclusione che l'anoressia e la bulimia siano i segni di una ferita, di uno strappo, di una rottura tra la ragazza e le persone a lei vicine, tra la ragazza e il mondo. Questa rottura, dapprima subita, è stata poi assunta e rivendicata dalla ragazza, che in qualche modo la riproduce all'interno di se stessa, lottando contro il proprio corpo che è diventato il simbolo del tradimento. Il pensiero della Lavanchy è condiviso anche dalla psicologa lesbica Dusty Miller nel suo saggio Donne che si fanno del male. Quest'ultima circostanzia il tradimento della società in un trauma subito, in una ferita aperta da ogni sorta di abuso, abbandono, violenze sessuali, incesto, ma anche iperprotettivismo. Ecclesiastis, Free My Heart di Michel Ndevi-Osillo, continuiamo a parlare dei disturbi dell'alimentazione e di Renate Gekel, una psicologa che si occupa da anni della terapia delle donne afflitte da bulimia e che afferma che non è possibile pensare di avere una motivazione di origine, né tantomeno una guarigione universale. È possibile solo pensare ad un percorso verso la guarigione assolutamente personale. Sono molto riottosa nel citarvi anche ciò che afferma la psicologa Gianna Schelotto nel suo libro Una fame da morire, dove si afferma, senza alcuna motivazione a sostegno, in termini estremamente banali e semplicistici, che la causa è da ricercare nella famiglia, che le ha nutrite male fino ad escluderle e a negarle, ed anzi, e ci risiamo, determinanti la parte della madre, che inconsapevolmente ha intriso il suo amore materno delle proprie amarezza di donna frustrata. Che pianto! Appare molto più incisiva e penetrante l'analisi che fa diversi anni prima la psicologa americana Colette Dowling nel suo saggio La sindrome di Biancaneve, che ha come sottotitolo, a mio parere, la chiave di svariate motivazioni, quando il mito della donna perfetta diventa una mela avvelenata. Pur riconoscendo il ruolo determinante della madre nella crescita della propria figlia, fa un'analisi di quanto e di cosa la società chiede alle donne nel modo di essere e di vivere, addirittura sottolineando il malessere dilagante alla fine degli anni 90 per le manifestazioni di ambizioni coattive. La psicologa afferma che questo nuovo tipo di ambizione può dar luogo ad una sensazione angosciosa di non essere adeguate, alla sensazione che non siamo mai state adeguate e alla tormentosa paura che la profonda ammirazione di cui tutti gli esseri umani hanno bisogno per il loro benessere emotivo può non esserci accordata mai, perché siamo donne. Da varie parti si legge che qualunque siano le cause di fondo o scatenanti, si tratta di patologie che esigono attenzioni e non solo attenzioni sanitarie, e che occorre un approccio multidisciplinare che consideri la persona ammalata in una visione non settoriale ma globale, nella sua interezza psichica e biologica. Pertanto è necessario che si verifichi l'interazione continua di molteplici operatrici ed operatori nell'ambito di strutture adeguate ad inquadrare correttamente e curare con interventi ambulatoriali o di day hospital o in strutture residenziali. Per inciso, quanto si investe per curare i mali causati dalle ruralizzazioni sociali, dall'individualismo dilagante, e quanto si fa per modificare tutto ciò che può determinare queste e tante altre patologie? Sarebbe il caso di pensare anche a questo, per sovvertire l'ordine del problema. In Italia, a differenza di altri paesi europei e degli USA, la diffusione di centri che consentano un approccio multidisciplinare è assolutamente inadeguata. La conseguenza è che i pazienti e familiari rimbalzano da uno specialista ad un altro. Ha rappresentato quindi una tappa importante il risveglio dal suo torpore istituzionale del Ministero della Sanità, con la presentazione di un volume contenente le linee guida per l'assistenza a pazienti affetti da bulimia e di anoressia, elaborato da una commissione di esperti. Vengono infine fornite dettagliate informazioni sull'inquadramento delle forme patologiche, su come devono essere organizzati i centri, come deve essere formato il personale sanitario, eccetera. Tuttavia, poiché questo percorso appare troppo lento ed inadeguato, è stato proposto alle regioni di effettuare un censimento dei centri qualificati e delle figure professionali già esistenti, oltre alla creazione di nuove strutture in tempi brevi in quelle regioni dove non esista alcuna realtà già operativa. L'ABA, l'Associazione per lo Studio e la Ricerca sull'Anoressia e la Bulimia e i Disordini Alimentari, è stata la prima realtà in Italia che si sia posta il problema di colmare la lacuna abissale tra una paziente, che non si considera tale, e le autorità sanitarie competenti, attraverso centri che sono in grado di fornire un aiuto concreto per raggiungere la consapevolezza che il proprio stato è un sintomo risultante da problemi irrisolti. È stata fondata da Fabiola De Clercq, autrice di un libro dal titolo Tutto il pane del mondo, cronaca di una vita tra anoressia e bulimia. L'esperienza della De Clercq è simile a quella della Orbaker e come lei ha deciso di non occultare il suo problema ma di farlo esplodere per dare inizio alla guarigione. La sua associazione ha due sedi principali a Roma in via Beltrami e a Milano in via Solferino ed altre sedi periferiche dove si tengono gruppi di sensibilizzazione che consentono alle persone anoressiche o bulimiche di prendere coscienza dei propri bisogni e delle proprie emozioni. Basta, mi fermo qui, anche se ci sarebbe ancora molto da dire. Se avete bisogno di conoscere qualche recapito telefonico a cui rivolgervi, chiamate ora qui in radio allo 06 461 750 o lasciate un messaggio o inviate un fax allo 06 68 64 201. ricordo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto a cura del coordinamento lesbiche romane. Numilione, un anime obbligatorio, la cui traduzione è un milione per le anime del purgatorio, tipica espressione napoletana per indicare stupore e frasi di un film di un famoso comico napoletano, pronunciata da un vecchio che dormiva sempre e si svegliava solo per dire questa frase ogni volta che sentiva parlare di un milione di lire. Ebbene, per noi le anime del purgatorio sono quelle che hanno sfilato per le vie di Roma sabato 24 ottobre. La stampa e la televisione hanno parlato di circa un milione di anime che sono venute da tutta Italia per acclamare il trio più bello d'Italia, in una manifestazione che si è conclusa con inni e braccia alzate in una tipica scena da lezioni presidenziali americane. Forse è con gli inni ed il populismo che si fa dimenticare ad un popolo ed al milione di anime presenti la disastrosa politica economica e sociale del breve ma negativamente incisivo governo Berlusconi. Quasi in contemporanea e nello stesso stile si svolgevano in Cile le incredibili manifestazioni di appoggio a Pinochet. Incredibili perché nemmeno gli inni e le gigantografie di un uomo dallo sguardo penetrante dovrebbero riuscire a far dimenticare anni di orrori, torture ed assassini. Ma evidentemente le ricchezze accumulate da una certa fascia sociale durante il regime riescono anche in questo. D'altra parte, queste cose le ha dimenticate anche la pseudo-democratica Europa, che riesce a porre questioni umanitarie anche per un assassino di quella lista. Comunque, parlavamo di anime del purgatorio italiano. E che dire di Din D'Alema? Anche la sinistra si è spaccata su un Bertinotti che fa cadere il governo, ma nessuno si chiede se questo governo era quello giusto, e si parla solo dell'eventualità di aver spianato la strada alla destra. Ma non è che ci lasciamo sommergere dalla nostra stessa ipocrisia? Il governo Prodi era un governo di sinistra? Forse no. Ed un Bertinotti che aveva ben chiarito al momento delle elezioni di entrare nella maggioranza solo per tenerne l'asse spostato a sinistra, poteva mai mediare ancora dopo averlo fatto in ben due occasioni? Poteva mai giocare l'equilibrio di questo asse in un governo sempre più di centro e meno di sinistra? La politica economica di Prodi poteva essere considerata di sinistra? Prima di giudicare le azioni politiche, bisognerebbe conservare nella memoria le azioni di un governo e non quello che se ne dice nelle conferenze di partito. Ovviamente questo vale però anche per Bertinotti e per tutta la politica istituzionale. Ma come possiamo mantenere un giudizio lucido se costole importanti di quel governo Prodi ne creano un altro che è a dir poco mostruoso? Cominciamo dall'inizio e dal discorso di apertura di Din D'Alema, Aldo Moro. Se ne dica bene o male, se avesse terrore o compassione delle manovre di Moro con gli Stati Uniti, sarebbe stato opportuno evitare di citarne la memoria se si è appena costituito un governo con uno dei suoi principali assassini, Cossiga. Ma avete dimenticato come si scriveva il suo nome sui muri quando eravamo più giovani? Cossiga con la K e le due S naziste. Cossiga, che non esitava a far massacrare i manifestanti dai celerini, e molti di noi hanno i lividi ancora impressi nel settimo strato della pelle. Cossiga, Cossiga ministro degli interni, quando Moro è stato ucciso. E poi, caro Din D'Alema, ma veramente credi di essere Berlinguer? Pinochet, D'Alema, Cossiga e Paolo Cirino Pomicino, Rosa Russa Iervolino e tante altre teste non pensanti che lottano solo perché amano il contatto dei loro culi con le poltrone rosse di Montecitorio. E poi dicono che noi lesbiche siamo normali. Ma ragazze, ve la ricordate la sinistra degli anni 70? Joan Baez con Dona Dona. Dona Dona Dona Dona Dona Dona Dona Dona Dona Dona Dona Dona Dona Dona There's a cap with a mournful eye. High above him there's a swallow winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night, bum, bum, bum, bum, dona, dona. Stop complaining, said the farmer, who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, da da da da. Knowing the reason why, but whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly, how the winds are laughing, la da da da da da da. Come avrete notato, il disco è rovinato, ma le idee sicuramente no. Dunque, per quanto riguarda le notizie, volevamo dirvi che su Panorama del 29 ottobre troviamo ben 3 pagine dedicate, come recita il titolo dell'articolo, a Lesbo Time. Monica Bigliardi e Antonella Piperno traggono spunto da alcune trovate pubblicitarie di stilisti come Guy Mattiolo e Louis Vuitton e dal bacio tra due modelle avvenute sulla passerella della Griff, Piano Piano Dolce Carlotta, per affermare che l'ambiguità erotica femminile è di moda. Peccato che l'articolo sia in piena linea con il giornale, ovvero superficiale e qualunquista, e che lasci trasparire come le fonti di riferimento siano come sempre militanti dell'arcilesbica o donne come Eliana Borghi, che sembra evidenziare con le proprie affermazioni come il lesbismo lo stia vivendo dall'alto della sua torre d'avorio. Il separatismo non esiste e perfino nel riquadro dedicato al saperne di più non compare nemmeno un riferimento alle pur note maggiori associazioni separatiste, nemmeno quando si accenna a Fire, che invece ha avuto la sua prima durante il Festival del Cinema Lesbico Separatista Immaginario. Ringraziamo per questo, oltre le giornaliste, anche le compagne di Arcilesbica, sempre pronte al rispetto delle differenze. In seguito alle 5 settimane di discussione del testo del trattato che si sono svolte durante l'estate a Roma, si è costituito il Tribunale Penale Internazionale Permanente con sede all'Aia, la cui giurisdizione comprende 3 forme di reato: genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. È sicuramente da apprezzare nel trattato l'uso di un linguaggio non sessista nei riferimenti al pubblico ministero, che prevedono l'uso della circonlocuzione she or he. Ben altre considerazioni si devono fare per l'utilizzo della parola genere, che nella sua forma inglese gender aveva suscitato l'opposizione di alcune delegazioni, in quanto, indicando anche l'orientamento sessuale, avrebbe esposto gli stati che, ahi noi, condannano l'omosessualità alla persecuzione da parte dello stesso tribunale. Ma si sa che gli eterosessuali, che siano pseudodemocratici o conservatori, su queste cose trovano subito un accordo. E quindi nella frase perseguire un gruppo o una collettività per motivi politici, razziali, nazionali, culturali, religiosi o di genere, è stato specificato che genere significa esclusivamente maschio e femmina. Bene, bene, come tutti i gamberi che si rispettano, un passo avanti e 2 indietro. L'importante è raggiungere gli obiettivi e viva Machiavelli che, per perseguire chi persegue tutti gli altri e le altre, ci fa alleare con chi persegue gli omosessuali. Bel giochetto, vero? E non solo di parole. In questi giorni è uscito, nelle sale cinematografiche italiane, il film che vede come una delle protagoniste Anne Haeck, 6 giorni, 7 notti. Questo film, ancor prima di uscire, era già famoso, non tanto per la trama che risulta essere uno dei tanti film di azioni con gli inevitabili risvolti sentimentali, neanche per il nome del regista, Ivan Reitman, che forse solo gli appassionati di cinema ricordano, neanche per il grande attore di fama internazionale Harrison Ford, e neppure perché questa pellicola concorre come candidata ad un premio Oscar. La causa di tutto questo scalpore sta nel fatto che Anne Haeck, già attrice di diverso successo, ha dichiarato pubblicamente di essere lesbica. Ci rendiamo conto che forse nelle stanze dei bottoni della Disney, che ricordiamo produce il film, c'è stato un brivido. Ma come? Una lesbica in coppia con Harrison Ford? Certo che per i produttori di Biancaneve e i Sette Nani o La Bella Addormentata nel Bosco è un bel salto di qualità, non c'è che dire. Per quanto ci riguarda, non possiamo che essere contente, per due motivi. Il primo è che Anne si è resa visibile per quello che è, il secondo motivo è che finalmente si giudica un'attrice per le sue capacità professionali e non per le proprie scelte di vita. Il mondo della celluloide è pieno di attori gay ed attrici lesbiche e noi siamo pronti a confermare che non soltanto nei set cinematografici c'è un vasto numero di omosessuali, credeteci, siamo proprio ovunque. Ma torniamo al film in questione e alla polemica che è scaturita. Cos'è che rendeva dissonante ancora di più tutto quanto? Il fatto che Anne fosse una bella donna. Nella mente di molte persone, purtroppo, la lesbica è identificata come un maschio mancato. È quindi inevitabilmente brutta, mascolina e, perché no, anche un po' rozza e piena di peli. Non sto scherzando. Una mia cara amica d'infanzia che rivedevo dopo molti anni, alla quale ho confidato il mio essere lesbica, mi ha confessato che qualche dubbio le era già venuto, ma che certamente io non potevo esserlo, perché andavo dall'estetista. Comunque, tornando ancora una volta al film, vi devo confessare che ancora non l'ho visto. Forse perché sono restia ad andare a vedere qualcosa solo perché è particolarmente pubblicizzato. Non so, deciderò di farlo forse tra un po'. Per il momento vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima volta. Ciao da Caterina, Deborah e Laura. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.